Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. 2 anni e mezzo dopo, già verso la metà d'aprile, la primavera era arrivata più presto del solito e nello stesso tempo c'era stato un avvenimento che faceva canterellare di gioia il vecchio Johann Buddenbrock e commuoveva suo figlio. Una domenica mattina alle 9 il console stava seduto davanti al grande scrittoio bruno sotto la finestra, il cui coperchio curvo era ribaltato mediante un ingegnoso meccanismo. Davanti a lui era una grossa cartella di cuoio piena di carte. Egli ne aveva tolto un fascicolo dalla copertina sbalzata e dal taglio dorato e vi scriveva con ardore, con quella sua scrittura sottile, minuscola e frettolosa, assiduamente, senza soste, salvo quando intingeva la penna d'oca nel pesante calamaio di metallo. Oggi, 14 aprile 1838, alle 6 del mattino, la mia cara consorte Elisabeth, nata Kröger, con l'aiuto benevolo di Dio, ha dato felicemente alla luce una bambina cui al santo battesimo sarà imposto il nome di Clara. Sì, il Signore l'ha aiutata, quantunque, secondo il dottor Grabow, la nascita sia stata lievemente prematura e precedentemente non tutto sia andato in piena regola e Betsy abbia avuto forti dolori. Ma dove può esserci un Dio come te, Signore Sabaoth, come te che aiuti nei pericoli e nel bisogno e ci insegni a conoscere la tua volontà affinché ti temiamo e possiamo essere fedeli al tuo volere e ai tuoi comandamenti? Oh Signore, guidaci tutti finché viviamo su questa terra. La penna correva agile e svelta, eseguendo ogni tanto un ghirigoro commerciale, e di riga in riga continuava a discorrere con Dio. 2 pagine più avanti diceva: «Ho intestato alla mia figlia più giovane una polizza di 150 talleri. Tu, Signore, accompagnala per le tue vie e donale un cuore puro affinché un giorno possa entrare nella dimora dell'eterna pace. Noi, infatti, sappiamo bene quanto sia difficile credere con tutta l'anima che il caro e buon Gesù sia tutto nostro, perché il meschino e debole cuore terreno...» Dopo 3 pagine, il console scrisse un «Amen», ma la penna andò avanti scivolando con un leggero fruscio su parecchi fogli ancora e scrisse della fonte preziosa che ristora lo stanco viandante, delle sacre e sanguinanti ferite del Redentore, della via stretta e della via larga e dell'immensa magnificenza di Dio. Infine, dopo un ultimo versetto della Bibbia e un triplice Amen, versò il polverino dorato sullo scritto e si appoggiò alla spalliera tirando il fiato. Una gamba accavallata sull'altra, sfogliò lentamente il fascicolo per leggervi qua e là un brano delle considerazioni che vi si trovavano di suo pugno e per rievocare ancora con gioia e gratitudine le 1000 occasioni nelle quali la mano di Dio lo aveva visibilmente benedetto. Il console Buddenbrock prese la cartella di cuoio per cavarne qualche altro foglio e darvi un'occhiata. C'erano lettere antichissime, gialle, sbrindellate, che madri amorose avevano scritto ai loro figli che lavoravano in terra straniera, con in calce la notazione del destinatario, ricevuto e preso a cuore il contenuto. C'erano certificati di cittadinanza con stemma e sigillo della città anseatica, polizze, poesie di felicitazione e lettere di padrini. C'erano documenti tristi, le lettere cattive di Gotthold a suo padre e infine, gaia conclusione, l'ultima poesia d'occasione di Jean-Jacques Hofstede. Si udì un tintinnio sottile e frettoloso. Il campanile, nel quadro scialbo che pendeva sopra lo scrittoio e rappresentava un'antica piazza, possedeva un orologio vero che adesso suonava le 10 a modo suo. Il console chiuse la cartella di famiglia e la ripose in un cassetto interno dello scrittoio. Era molto carina la piccola Toni Buddenbrook. Di sotto il cappello di paglia le sgorgavano i riccioli naturali, il cui biondo oscuriva con gli anni, e il labbro superiore, un po' prominente, conferiva a quel visetto dagli occhi grigio-azzurri e vispi un'espressione birichina che ricompariva in tutta la sua figuretta graziosa. Muoveva le gambette sottili nelle calze candide con una certa sicurezza ondeggiante ed elastica. Molte persone conoscevano e salutavano la figliuola del console Buddenbrook quando dal cancello del giardino usciva sul viale degli ipocastani. Qualche ortolana, che con in testa l'ampio cappello di paglia ornato di nastri verdi veniva dal villaggio guidando il carrettino, le lanciava un cortese «Buongiorno, signorina!» e il corriere Mattisen, che passava di lì in abito nero con le brache ampie, le calze bianche e le scarpe con la fibbia, per il rispetto si toglieva persino il modesto cilindro. Non era un gran male se Toni, quando attraversava la città, conosceva tutti e chiacchierava con tutti. Particolarmente il console ne era soddisfatto perché ciò rivelava la mancanza di alterigia e il senso di umanità e di amore per il prossimo. Insieme con Tom, ella s'arrampicava sui granai lungo il trave, tra montagne di avena e di grano accumulate nei solai. Ciarlava coi lavoratori e con gli scritturali allogati laggiù nei piccoli uffici scuri al pian terreno, e dava persino una mano a coloro che issavano i sacchi. Conosceva i macellai che passavano per la via larga in grembiule bianco e con le conche della carne. Conosceva le lattaie che arrivavano dalla campagna con bidoni di zinco e qualche volta faceva un pezzetto di strada sui loro carretti. Conosceva i maestri orafi dalla barba grigia nelle piccole botteghe di legno incastrate sotto gli archi della piazza del mercato. Conosceva le venditrici di pesce, di frutta e di verdure e persino i facchini che masticavano tabacco agli angoli delle strade. Tutte belle cose. Ma quell'uomo pallido e senza barba, dall'età indefinibile, che suol passare la mattina con un triste sorriso per la via larga, non ha nessuna colpa se a ogni grido improvviso che gli si lancia «Ah!» per esempio, oppure «Uh!» è costretto a ballare su una gamba sola. Eppure Toni, appena lo vedeva, lo faceva ballare. Non è bello poi conturbare quella donnina minuscola dalla testa grossa che con qualunque tempo ha l'abitudine di portare un enorme ombrello aperto, tutto bucherellato, con insulti come «Madama ombrellina?» oppure «Funghetto?» Ed è un fatto riprovevole quando con due o tre amiche dello stesso umore ci si mette davanti alla casetta della vecchia bambolaia che vende bambole in un vicolo, e questo è vero, ha certi occhi stranamente rossi, e si tira a tutta forza il cordone del campanello e al comparire della vecchia si chiede con falsa cortesia se abitano là il signore e la signora sputacchieri, scappando poi tra urli e strilli. Tutte queste cose però Toni Buddenbrook le faceva, e a quanto sembrava senza rimorsi di coscienza. Se infatti uno dei perseguitati la minacciava, allora bisognava vedere come si ritraeva d'un passo, arrovesciando la bella testa dal labbro prominente e pronunciando un «Boh!» fra indignato e beffardo, come per dire «Osa pure farmi qualcosa, se per caso non lo sai, io sono la figlia del console Buddenbrook». E passava per la città come una piccola regina alla quale si riservi il diritto di essere gentile o crudele secondo il gusto e il capriccio. Thank you. A proposito dei due figli del console Buddenbrook, Hofstede aveva espresso certamente un giudizio esatto. Thomas, che fin dalla nascita era destinato a diventare commerciante e futuro proprietario della ditta e che frequentava la sezione tecnica della vecchia scuola dalle volte gotiche, era un ragazzo posato, intelligente e attivo. D'altro canto, si divertiva un mondo quando Christian, alunno di ginnasio e non meno intelligente ma meno serio, imitava con grande abilità i suoi insegnanti, in particolare l'ottimo Marcellus Stengel, il quale insegnava il canto, il disegno e simili materie allegre. Della giovinezza di Tom e di Christian non c'è niente di particolare da dire. In quel tempo splendeva il sole nella casa dei Buddenbrook perché gli affari andavano a vele gonfie. Solo qualche volta capitava una burrasca, una piccola disgrazia come questa. Il signor Stutt, un sarto la cui moglie acquistava vestiti usati e frequentava perciò la migliore società, il signor Stutt, la cui pancia era coperta da un camiciotto di lana e sbucava dai calzoni con stupefacente rotondità, il signor Stutt aveva fatto per i giovani Buddenbrook due abiti che costavano in totale 70 marchi. Se non che, per desiderio dei due ragazzi, si era lasciato indurre a segnare nella fattura pari pari 80 marchi e a versar loro la differenza in contanti. Era un piccolo affare, non del tutto pulito, ma tutt'altro che raro. Disgrazia volle che non si sa per quale oscuro destino tutta la faccenda venisse alla luce. E il signor Stutt, con la giacca nera sopra il camiciotto di lana, dovette presentarsi nello studio privato del console, dove Tom e Christian subirono in sua presenza un severo interrogatorio. Il signor Stutt, che a gambe larghe ma con la testa un po' reclinata e in atteggiamento rispettoso stava accanto al seggiolone del console, tenne un bel discorso dicendo che la faccenda era andata così e che, poiché aveva fatto cilecca, sarebbe stato ben lieto di incassare solo i 70 marchi. Il console era indignatissimo di quel tiro birbone, ma dopo mature riflessioni finì con l'aumentare ai figlioli il contributo per i minuti piaceri. È detto, infatti, non ci indurre in tentazione. Evidentemente Thomas Buddenbrook autorizzava a maggiori speranze che suo fratello. Il suo contegno era equilibrato e saggiamente sereno. Christian invece appariva lunatico, tendeva da un lato a una sciocca comicità e dall'altro era capace di far spaventare in modi strani tutta la famiglia. Ecco, si è a tavola, si è giunti alla frutta e si mangia chiacchierando tranquillamente. D'improvviso Christian ripone sul piatto una pesca addentata e impallidisce mentre i suoi occhi tondi e infossati si spalancano sopra il naso troppo grande. «Non mangerò mai più una pesca!» dichiara. «Perché no, Christian? Che storie sono coteste? Che cos'hai?» «Pensate, se per distrazione ingoiassi questo nocciolo così grosso e mi rimanesse in gola!» E non potessi prender fiato e balzassi in piedi e aggiunge un gemito pieno di terrore e salta dalla sedia e fa per scappar via. Sua madre e la signorina Jungmann si alzano effettivamente. «Oddio mio, Christian, non l'hai mica inghiottito davvero?» Tutto fa credere infatti che sia così. «No, no», dice Christian calmandosi. «Ma dico, se l'avessi inghiottito!» Il console, pallido anche lui dallo spavento, gli dà una sgridata e anche il nonno batte indignato sulla tavola protestando contro simili buffonate. Christian però non mangia più pesche realmente per parecchio tempo. Non fu soltanto la grave età quella che circa 6 anni da quando la famiglia si era stabilita nel palazzo della Mengstrasse, in una fredda giornata di gennaio, diede l'ultimo colpo alla vecchia Madame Antoinette Buddenbrook nell'alto letto a baldacchino che sorgeva nella camera del piano di mezzo. La signora era rimasta in gamba fino all'ultimo e aveva portato con eretta dignità i grossi riccioli bianchi sulle orecchie. Insieme col marito e i figlioli era intervenuta ai più importanti pranzi che si davano in città e nelle riunioni organizzate dagli stessi Buddenbrook aveva adempiuto ai suoi doveri di ospitalità non meno dell'elegante nuora. Ma un giorno, improvvisamente, si era verificato un disturbo quasi indefinibile. Quando Madame Buddenbrook ebbe esalato senza agonia l'ultimo e brevissimo sospiro, quando nella sala da pranzo fu data la benedizione e i portatori sollevarono la bara pesante coperta di fiori, non ci fu dubbio che anche Johann Buddenbrook si avviava verso la fine. Incominciò a starsene silenzioso e assente in mezzo alla famiglia. Un giorno disse: «Johann, ah sì, vero». E poco dopo incominciarono a circolare per la città i moduli elegantemente stampati e muniti di 2 firme, coi quali Johann Buddenbrook Senior aveva l'onore di comunicare che la sua età avanzata lo induceva a rinunciare all'attività commerciale e che per conseguenza la ditta Johann Buddenbrook, fondata da suo padre buonanima nell'anno 1768, passava da quel giorno sotto la medesima ragione sociale, con tutte le attività e passività, al suo figlio e socio Johann Buddenbrook come unico titolare. Diramata questa comunicazione, il vecchio si rifiutò di metter più piede negli uffici e la sua pensosa apatia aumentò in modo pauroso. Sicché verso la metà di marzo, soltanto un paio di mesi dopo la morte di sua moglie, bastò un piccolo raffreddore primaverile per costringerlo a letto. E poi, una notte, venne l'ora in cui la famiglia si trovò intorno anche al suo letto ed egli diceva al console: «Buona fortuna, hai capito, Jan? E sempre courage!» E a Thomas: «Aiuta tuo padre!» E a Christian: «Bada di diventare qualche cosa di buono!» Dopodiché tacque, li guardò tutti e si volse verso la parete. Fino all'estremo non aveva menzionato Gotthold, e all'invito scritto del console di farsi vedere presso il letto di morte del babbo, il figlio maggiore aveva risposto col silenzio. Ma la mattina seguente, molto per tempo, quando le partecipazioni funebri non erano ancora spedite e il console si avviava per sbrigare nell'ufficio gli affari più urgenti, ecco che Gotthold Buddenbrook, titolare del negozio di tela Sigmund Stüving and Company nella Via Larga, avanzò a passi rapidi dal vestibolo. Era un uomo di 46 anni, piccolo e corpulento, fornito di grossi favoriti biondo cenere con alquanti fili bianchi. Aveva le gambe corte e portava calzoni larghi a sacco di stoffa greggia quadrettata. Su per la scala andò incontro al console sollevando le sopracciglia sotto la tesa del cappello grigio e contraendole tuttavia. «Johan!» disse con voce alta e gradevole, senza porger la mano al fratello. «Come stiamo?» «È deceduto questa notte», rispose il console, commosso, afferrando la mano del fratello. Gotthold abbassò le sopracciglia al punto da chiudere le palpebre e, dopo una pausa, disse con intenzione: «Non si è mutato nulla, Johan, sino alla fine?» Tosto il console abbandonò quella mano e disse: «Niente». «E che cosa mi posso aspettare dal tuo senso di giustizia?» soggiunse Gotthold abbassando la voce. Il console a sua volta chinò lo sguardo, ma poi, senza risollevarlo, fece un gesto deciso della mano dall'alto al basso e rispose con fermezza: «In questo momento triste e grave ti porto la mano come fratello, ma sul terreno degli affari non posso stare di fronte a te se non come capo della rispettabile ditta della quale sono diventato oggi l'unico titolare. Da me non puoi aspettarti nulla che sia contrario agli obblighi che simile qualità mi impone. In questo gli altri miei sentimenti non c'entrano». Gotthold si ritirò, ma al funerale ricomparve con sincera soddisfazione del console, anzi portò anche sua moglie nata Stüving e le sue tre figliuole già grandi, Friederike e Henriette, che erano entrambe alte e allampanate, e la minore, la diciottenne Pfiffi, la quale era troppo piccola e grassa. Riconosceva, disse, sempre più che il console era costretto ad agire come faceva e che la memoria del babbo non doveva essergli turbata. Perciò rinunciava alle sue pretese, tanto più che aveva intenzione di ritirarsi dagli affari e di andare a riposo con ciò che aveva ereditato e con quanto altro gli rimaneva, poiché il commercio della tela gli dava poca soddisfazione ed era così poco redditizio che egli non sapeva decidersi a impiegarvi altro denaro. «La ribellione al babbo non gli ha portato fortuna», pensò il console con un'occhiata devota verso l'alto. E Gotthold pensò probabilmente la stessa cosa.